fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Quando ad incendiare la passione è qualcosa di molto profondo che una musica brutale, come dice la nostra sigla, entra in azione dei meccanismi a volte perversi. Noi tutti abbiamo un profondo piacere quando ci accorgiamo di essere nei pensieri di un'altra persona. Noi quando abbiamo una passione, un amore, un'attenzione corrisposta, siamo molto contenti di vedere un'altra persona molto disponibile nei nostri confronti, quando la chiamiamo. Cioè, noi tutti però abbiamo avuto esperienze in varie gradualità di persone che avremmo preferito spegnere con il telecomando, non vedere mai più nella nostra vita, o avere gradualmente in lenta sfumata dissolversi all'orizzonte della nostra percezione, eppure queste persone invece rimangono. O molte volte anche noi non ci siamo sufficientemente resi conto che una persona non aveva più desiderio, bisogno, passione, interesse di averci accanto. Quindi subentra un fenomeno molto frequente anche alle nostre latitudini. Immaginate che di stalking, visto che questo oggi stiamo parlando, è un termine anglosassone difficilmente traducibile, un po' l'atteggiamento del cacciatore quando si apposta per prendere la selvaggina. Noi usavamo un termine che fare le poste, noi facevamo le poste alle ex fidanzate, alle fidanzate, alle presunte fidanzate, a coloro che avremmo voluto fossero nostre fidanzate ai tempi del liceo. Avevamo la compagna di liceo cozza che ci faceva le poste, che cercavamo di svicolare il più possibile, ma sembrava qualcosa di innocente. Oggi è subentrato, perlomeno in un'osservazione a vasto raggio, come un fenomeno patologico, anche molto fastidioso, anche pernicioso a volte, anche pericoloso. Pensate che in Italia c'è un osservatorio nazionale dello stalking che ha fatto una ricerca, ha monitorato 16 regioni con 600 questionari sottoposti a un campione al 50% uomini, al 50% donne, e è venuto fuori che circa il 20% della popolazione, e sono tanti, è stato vittima comunque di stalking, e l'80% sono donne, quindi sono gli uomini quelli che sono più ossessivi. 800240024, cominciamo bene quest'anno che si pronuncia come un anno sinistro, perlomeno nelle profezie, ma noi ameremo smentire ogni profezia, parlando di questo fenomeno. Quante volte vi è capitato di avere una persona che in maniera ossessiva continua a rimanere avvinto alla vostra esistenza senza che voi abbiate nessuna partecipazione nel suo essere presente al vostro quotidiano? Quante volte avete trovato fuori dalla porta di casa, fuori del vostro ufficio, accanto alla vostra scrivania, lungo il vostro cammino quotidiano, una persona che ossessivamente pensa di avere delle pretese sulla vostra affettività, sulla vostra frequentazione? Quante volte non avete voi stessi saputo rassegnarvi dell'improvvisa scomparsa dalla vostra sfera di frequentazione affettiva di una persona? E quanto avete cominciato a mandare messaggi, a telefonare, a mandare email, a fare i patetici, a fare i distrutti, a fare i problematici, a fare gli ossessivi con questa persona? Beh, questo è un comportamento criminoso, un comportamento patologico, un comportamento ossessivo, è un comportamento di cui parliamo oggi, cominciando a raccontarvi dalla voce di una nostra speaker un messaggio di una signora che in uno dei tanti siti di persone vittime di stalking ha raccontato la sua storia. Sono una donna di 35 anni, sono felicemente sposata e ho due figli. Tempo fa ho conosciuto un uomo. Io avevo dei problemi coniugali e lui si è mostrato molto disposto ad ascoltare i miei sfoghi e a consigliarmi, a volte in modo disinteressato, poi via via sempre in toni più ambigui. Questa amicizia è durata qualche mese, fino a quando sono riuscita ad uscirne, ma con molta fatica e combattendo contro le sue minacce e rivendicazioni. Sosteneva che fosse suo il merito della riappacificazione con mio marito e non accettava che lo abbandonassi così. Questo è un caso un amico improvvisamente entra nella vita di una persona che ha una crisi di coppia e si mostra stranamente molto interessato a sanare questa crisi di coppia. Già uno dovrebbe sospettare, perché un uomo in maniera disinteressata dovrebbe aiutare un altro uomo a vivere felicemente con la propria donna, a meno che non faccia il consulente matrimoniale, lo psicanalista o abbia qualche interesse professionale. Ogni uomo naturalmente mira alla priorità della propria imposizione affettiva su una persona, quindi forse il primo consiglio da una persona per nulla esperta in queste situazioni è quella di diffidare dagli improvvisi amici, dalle persone che improvvisamente ci aprono e ci istigano ad essere confidenti, a raccontare le nostre storie. Tutti passiamo in momenti particolari, momenti difficili, momenti in cui ci sembra che il mondo non si accorga di noi, e chi improvvisamente si accorge di noi diventa una persona che sembra poter disporre della nostra vita in tutte le maniere. Ma esiste poi un momento della riscossione di questo apparentemente gratuito intervento di supporto passionale. Ha cominciato a mandare mail deliranti, facendomi temere qualche azione pericolosa nei confronti miei e dei miei figli, che in alcune mail ha pure nominato. Ho sbagliato, perché gli ho risposto giustificandomi, e ora mi sta tempestando di SMS e continua a rinfacciarmi di essere in credito nei miei confronti. Mi vuole vedere. Ora è una settimana che non rispondo e ad ogni squillo del telefono è un attacco di panico. Ho paura. Lui sa dove abito e conosce anche il mio numero di casa. Ho paura che se non gli rispondo più, me la faccia pagare. Ma non voglio cedere ai ricatti per paura. Non voglio la sua amicizia malata e soprattutto voglio stare serena. È una situazione al limite del paradosso. Questa donna non ha nemmeno consumato un adulterio con questa persona, si è semplicemente confidata, sperando, illudendosi di aver trovato improvvisamente un amico. Molte volte le protesi emozionali, i supporti informatici sono dei vettori malandrini e terrificanti di improvvise richieste, offerte a volte gratuite di supporto, di amicizia, di comprensione. A distanza sembra molto facile avere a cuore i fatti altrui, ma c'è sempre poi un momento in cui qualcuno, in cui lo stalker, il cacciatore, una volta presa la preda nel laccio, ha il lecito desiderio comunque di avere ampia e possibile fruizione di tutto ciò che questa preda può dargli, e questo comincia a scatenarsi il momento del panico. 800 24 00 24, siete voi degli stalker? Siete stati mai vittima di stalking? Già da Facebook, visto che è molto più facile scrivere che parlare, ci sono delle donne che mi stanno raccontando le loro storie di stalking. Ve ne racconto qualcuna. Maria Teresa dice che ha avuto lei uno stalker, si trattava di un ex fidanzato che aveva gravi problemi psichici, però stranamente uno se ne accorge sempre dopo dei problemi psichici della persona con cui divide momenti di affettività. Gli sono stata vicino per paura anche dopo la fine della nostra relazione. Ecco, subentra la sindrome da crocerossina, che molte donne continuano a perseverare anche dopo la fine di una relazione, tenersi a cuore la disperazione del partner abbandonato, cosa da non fare mai. Bisogna essere drastici quando si interrompe e si è deciso di interrompere una relazione. Un giorno l'ho trovato sotto casa che mi aspettava, una terribile sensazione. Non è stato l'unico caso di persecuzione. Ci può essere un legame di dipendenza nel proprio persecutore, tanto che diviene difficilissimo liberarsene. Poi subentra, ce lo diranno degli esperti, una sorta di sindrome di Stoccolma, in cui la vittima non sa bene poi quanto sia così decisa a tagliare i legami con il proprio persecutore. Daniela, un'esperienza potrei raccontarla. Molti anni fa avevo un socio e, dato che andavamo d'accordo, si mise in testa e ci dovevamo anche sposare. Aveva frainteso tutto e, quando si rese conto che non avevo nessuna intenzione, lui per ripicca iniziò a rubare e via dicendo. Una mattina mi sono trovata con un sacco di debiti, essendo l'unica responsabile, l'unica ci avrebbe rimesso capre cavoli. Mi prese quasi un colpo, ma dovevo ragionare e cercare di uscire da questo inferno. Così feci lentamente, ho risanato tutto, ma è stata dura anche dover averlo ogni giorno presente, perché solo lui sapeva dove aveva fatto i casini, quindi ne avevo bisogno ogni giorno ed era una ferita. Ecco, è la persona che i rapporti professionali si mischiano in maniera terrificante con i rapporti sentimentali o presunti, che lo stalker pensa sempre che la persona che lui perseguita abbia comunque una dipendenza non confessata o segreta nei suoi confronti. Eleonora: Il mio ex ha mandato 18 lettere a tutti i parenti del mio attuale ragazzo per infamarmi in maniera più che sprezzante, e lo ha rifatto mandandone anche un'altra più pesante una settimana prima del mio matrimonio. Ha parlato con tutti i negozianti della città facendo il mio nome e cognome, sempre dicendo cose assurde. Mandava da internet sms su di me al mio fidanzato facendolo chiamare da sue amiche, sempre parlare male di me. Questa è la persecuzione tipica anche del supporto informatico, è lo stalker che poi mette in circolazione anche foto private, foto di amori lecitamente consunti, esauriti, che però rappresentano una sorta di graffio con la chiave sull'automobile della propria vittima. Abbiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Lei è vittima di stalking? Buongiorno, sì, purtroppo è successo. Lei fa parte di quel 20% di maschi che sono vittime di stalking? Sì, la storia in maniera molto sintetica si passa dalla curiosità, dal mezzo sorriso alla passione, e poi ti accorgi che effettivamente non è il caso di portare avanti una storia con una donna poi estremamente più giovane, e cerchi di interrompere la storia, e qui comincia il delirio, l'ossessione prima, il delirio poi, l'incubo finale. Cioè non riusciva a tagliare questo rapporto? No, appostamenti. Lei era stato chiaro comunque nella conclusione, non è che aveva tenuto la sfumata lenta? No, una sfumata lenta era necessaria, però poi insomma, cioè un periodo di riflessione, qual era? Un periodo di riflessione, però poi... Ho bisogno di stare un po' solo con me stesso? No, io non potevo andare, un rapporto estremamente sbilanciato, perciò non potevo andare. E ripeto, lì è cominciato tutta la liturgia del delirio, ossessione prima, delirio dopo e incubo finale. Insomma. Cioè lei era anche sotto ricatto da questa persona? Assolutamente sì. Essendo sposato, sì. Sì, lo so, purtroppo, ahimè. Essendo sposato, sì. È la cosa che uno deve sempre considerare nelle fughe matrimoniali. Sì, lo so. Che c'è una coda. Capita a tutti. Sì, purtroppo a molti, non a tutti. No, vabbè. A molti. E vabbè, e come si risolvono queste cose? Le reazioni non portano a nulla. Le reazioni anche... violente. Ma non direi violente. No, violente, diciamo. Cioè dirlo non serve. Le reazioni servono a poco. L'unica cosa, portando un esempio, visto che siamo in radio, è togliere l'audience e la trasmissione si chiude. Almeno così si spera. In termini concreti? Ci vuole qualche mese, diversi mesi. Ma come fa a togliere l'audience? Non accetti più il confronto, né lo scontro, né il dialogo, né l'SMS. Sì, ma questo sarebbe molto semplice, dire non chiamarmi più. No, ci si riesce. Ci si deve riuscire per forza, altrimenti diventa sempre motivo, diciamo così, che alimenta questa stortura. Questo delirio viene alimentato paradossalmente anche dal no, anche dalla contrapposizione forte. No. Audience, via l'audience e la trasmissione si chiude. Sì, a me sembrava già scontato che a un certo punto la vittima non vuole più avere a che fare con il persecutore, ma a volte questo non è nemmeno sufficiente. Vabbè, nella sindrome di Stoccolma questo succede, che la vittima si innamora del persecutore. Comunque, però, lei dice non dare mai speranze, cioè alla fine... A parte non dare le speranze, devi essere chiaro da prima, ma non è sufficiente non dare le speranze, perché la sovrastruttura illusoria uno se la crea da sé, perciò non dare le speranze a volte non basta. Lei ha cambiato anche telefono? L'audience. Cosa? È stato costretto a cambiare anche telefono? No. Quindi è bastato un atto di decisione. Grazie Roberto, buongiorno. Andiamo a qualcuno e forse può darci... qualche consiglio concreto e una casistica un po' più precisa rispetto a quella che stiamo tracciando noi. Ho al telefono il dottor Massimo Lattanzi. Dottor Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Lattanzi è psicologo e psicoterapeuta, è fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, è coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking e del Centro Presunti Autori. Poi mi spiega cosa significa Centro Presunti Autori. Io tratto qualche dato statistico, mi sembra da una ricerca che avete fatto voi. Sì. Dunque, noi effettivamente ad oggi abbiamo monitorato 16 regioni, contiamo entro i primissimi mesi del 2009 di concludere tutte le regioni italiane, anche in collaborazione con il sindacato di polizia COISP che ci ha dato un grande supporto per poter monitorare tutta l'Italia. Anche perché mi sembra che esistono ancora abbastanza dei buchi dal punto di vista normativo per reprimere lo stalking. È un reato decifrabile, ascrivibile comunque a delle leggi, a delle norme, a delle sanzioni, lo stalking? La ringrazio anche per questa domanda, perché noi siamo in continuo contatto con i decisori istituzionali. Noi riteniamo che assolutamente, anche grazie all'intervento di Roberto, che in qualche modo ha decifrato molto bene la situazione dello stalking, il restringere, il condannare, il punire gli stalker o presunti tali, penso che possa portare a poco. Lei mi chiedeva che cos'è il centro presunti autori. È un centro che da 2 anni si occupa anche di coloro che agiscono queste condotte. È importantissimo. Noi, in quanto formati dal pioniere dello stalking, il professor Paul Mullen, l'australiano, e lui da 20 anni ha fondato una struttura, una clinica simile a quella che abbiamo fondato noi, che è la prima in Europa ad oggi. Sì, ma questo presuppone che lo stalker si consideri come persona bisognosa di aiuto. Se magari pensa soltanto di essere uno ingiustamente abbandonato, non lo so, si sradica mai dal suo comportamento. Guardi, come diceva Roberto prima, ci vuole tempo. Le motivazioni bisogna trovarle dentro la persona, e grazie all'esperienza e la professionalità che noi abbiamo acquisito in quasi 8 anni, mi permetto di ricordare che lo stalking è assolutamente un campionario comportamentale assolutamente peculiare, che non può essere assimilato alla violenza in genere e alla violenza di genere, perché come Roberto ha detto, può sfociare in violenza. Assolutamente sì, circa il 10% degli omicidi dolosi in Italia, noi abbiamo monitorato dal 2002 al 2008, hanno avuto come prologo atti di stalking. E questo si riallaccia a quello che stavo per dire, che queste persone spesso reagiscono male alle autorità, alle decisioni forti. Come diceva Roberto prima, bisogna saper decifrare e in qualche modo mediare a questo loro bisogno di non rifiuto, questo bisogno di non separazione. Però uno non può nemmeno essere disponibile per una persona con cui non vuole avere a che fare in tempo indeterminato. Ecco. Assolutamente sì, non ho detto infatti un tempo indeterminato, ma c'è un tempo relativamente determinato. Bisogna in qualche modo assecondare i bisogni di queste persone, oppure fare in modo che si rivolgano a strutture come la nostra, perché noi ad oggi abbiamo seguito 32 persone e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Anche le stesse presunte vittime e i familiari, come si diceva nella prima storia, quella della donna, molto spesso lo stalking non si limita a perseguitare, a molestare la persona indicata, spesso allargano il loro raggio d'azione. Soprattutto quando c'è un rapporto in piedi, la moglie o il marito o il nuovo fidanzato o nuova fidanzata entrano nella rosa che colpisce lo stalker. Federica, buongiorno. Salve, buongiorno. Lei ha avuto Guardi, sono passati 40 anni, ma me ne ricordo ancora come di un incubo, il peggior incubo della mia esistenza. Ecco, lo raccontalo. Allora, io ero una ragazza di 25 anni, con la puzzetta sotto il naso, quello no, quello no, quello no, quell'altro no. Dopodiché incontro un medico, una persona squisita, intelligente, pazza come tutti i geni, e me ne innamoro follemente. Con l'andare del tempo mi rendo conto però che non era possibile vivere con questo uomo troppo diverso da me, con dei desideri per il futuro troppo diversi dai miei. L'ha mollato. Sì, l'ho mollato, gli ho detto non so come farò a vivere senza di te, ma mi sono resa conto che con te non posso vivere. Punto. Beh, oddio, uno che dice una frase del genere già dovrebbe essere punito, scusi. Se lo molla, lo molla. Che bisogno c'è che dice non vivo senza di te? È un inutile strascico, alimenta una speranza. No, forse sì, ma sa. Doveva dirgli, vattene a quel paese, poi, no? Non ti voglio. Vabbè. Allora, come ha reagito il medico? Facciamo una settimana di silenzio. Poi i cesti di fiori, 3 il giorno di quelli che arrivano nel camerino delle dive, sa? Sì, va bene. Niente da fare. Gli uomini si ricordano dei fiori soltanto quando sono abbandonati, di solito. Infatti sì, altrimenti prima nemmeno, ma che sono cose, certo, da tutti, non si può fare una cosa del genere. Vabbè, comunque, poi dico, guarda, non insistere perché non è possibile. Me ne sono andata, sono partita, sono stata via un mese, quando sono tornata l'ho trovato, non che l'ho trovato, ma si è fatto scoprire sotto un aspetto molto più perfido. Allora, le telefonate in piena notte dalle cabine del telefono sparse per tutta la città, che io rimanevo isolata tutta la notte, il giorno dopo. Di tutto, di più. Dove è arrivato il punto massimo? È arrivato e a un certo punto devo aver fatto un abbonamento a quegli orrendi giornali pornografici che venivano venduti negli anni 55-60. Sì, prima di internet, certo. Sì. No, internet non c'era, di conseguenza non poteva mettere le fotografie su blog, anche perché le mie sarebbero state di una completamente vestita, con la faccia a giramento di scatole probabilmente a quel punto. Beh, allora cosa faceva? Allora, ha scritto, ha risposto a gente che cercava la padrona da frustare, Sadomaso. Dando il suo indirizzo? Certo, si firmava a nome mio. Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. E lei si trovava sotto casa, signori, con la valigetta? No, sotto casa no, perché mi telefonavano dalla Svizzera alla Sicilia, ma io trovavo gente che mi voleva conoscere in tutti i modi perché era rimasta affascinata da me. E ne ha mai approfittato? Non si è scritto mai. Io allora che ho fatto? Lì per lì sono rimasta paralizzata. Dopodiché ho detto, ma mica lo posso lasciare libero a girare per Firenze a questo. L'ha denunciato o no? Allora, ho fatto di meglio, perché denunciarlo e basta sarebbe stato difficile a quel punto trovare... Sì, arriviamo alla conclusione che devo lasciare la linea, arriviamo al punto, come ha risolto il problema? Ho risolto dicendo, guardi, mi hanno fatto uno scherzo di cattivo gusto, faccia le gentilezze, lei dimessa tutto, nome, cognome, indirizzo e telefono, mi mandi la lettera che ha ricevuto in una busta e me la faccia avere. Sì, signorina, mi scusi, ma che cosa, mamma mia, non raggranellate una quarantina. A quel punto l'ho denunciato. Ah beh, quindi è riuscita a uscirne da questa situazione? Ne sono uscita e sparito come la nebbia al sole, perché poi sono andati all'istituto di medicina dove lui faceva l'aiuto primario. Vabbè, se è riuscita in epoca analogica comunque a vendicare, forse allora era molto più facile, avendo il corpo del reato e avendo tutti gli elementi per fare una denuncia. 800240024, siete state vittime di stalking o confessate se voi l'avete mai fatto nei confronti di una persona che non accettavate, che vi avesse abbandonato. Melog 2.0 800240024, stiamo parlando di stalking, stiamo parlando di comportamenti ossessivi, comportamenti che sfociano molto spesso nella patologia, o come ci diceva l'esperto che avevamo in studio in prima parte di trasmissione, molte volte possono essere anche l'origine di un fatto delittuoso. Una persona non si rassegna di essere abbandonato, lasciato, di non essere corrisposto, di non essere poi nemmeno considerato da un'altra persona, e comincia a ossessionarla, a telefonare, a mandare messaggi, a fare appostamenti sotto casa, fino ad arrivare a comportamenti molto più violenti e molto più drastici. Uno di questi stalker in terapia, e quindi uno stalker pentito, uno stalker che si è reso conto appunto dell'aspetto patologico, e il lato più, secondo me, più difficoltoso, che chi ossessivamente perseguita un'altra persona un giorno si renda conto di essere dalla parte del torto, non si senta una vittima dell'inconsapevolezza di una persona che in realtà lui è l'uomo o la donna della sua vita. Beh, uno stalker pentito ci ha raccontato la sua storia. Io mi chiamo Angelo, ho 58 anni e la mia storia è iniziata 3 anni e mezzo fa, quando ho conosciuto una persona, una storia che ci ha coinvolto per diversi mesi, tanto è vero che eravamo in simbiosi l'uno con l'altro, qualunque cosa sentivamo lo sentivamo entrambi, anche a distanza. Io ero praticamente separato, lei libera, e ci siamo conosciuti sul lavoro. Una persona veramente eccezionale, mi fidavo di lei, questa persona mi ha completamente preso, posso dire, l'anima. Dall'inizio sembra una felice irruzione nel quotidiano di una persona, di un incontro di quelli che uno benedice il Padre Eterno. Finalmente una persona con cui ho un buon rapporto, può accadere nel mondo del lavoro, può accadere in mille occasioni, di trovare improvvisamente una persona amica, una persona con cui uno ha piacere di confidarsi, con cui passa piacevolmente il tempo, anzi, con cui il tempo sembra correre velocissimo, mentre è così insopportabilmente tedioso con il resto del mondo. All'improvviso, questa persona, dopo mesi di questo rapporto sentimentale molto, molto profondo, è dovuta ripartire per il suo paese, e da lì sono cominciati i problemi, perché all'improvviso questa persona ha cominciato a negarsi. In poche parole, mi ha abbandonato l'impresa senza dare spiegazione. Quando è partita addirittura ci sentivamo anche 30-40 volte al giorno, non c'era un minuto che non ci si sentiva, eravamo talmente in simbiosi che non potevamo fare a meno di sentirsi, ecco. Dopo qualche mese che praticamente era ripartita, c'è stato un momento che con giochi di parole ha cercato forse di farmi capire qualcosa. Io stasera esco con un amico, insomma, cose che piccole coltellate potrebbero essere così per far arrivare un po' di gelosia all'altra persona, invece a quanto pare non era così. Certo, naturalmente quando uno è convinto, è illuso di avere un così profondo e insostituibile rapporto di simbiosi con un altro essere umano, dovrebbe guardare dentro se stessi, guardare quanto in realtà può forzare la propria natura e cercare di liberarsi con l'altro essere umano, perché la simbiosi in realtà, ma questo è il mio punto di vista, perfettibile, criticabile quanto volete, non è mai salutare per nessuno. Noi dobbiamo vivere bene in simbiosi con noi stessi, in armonia con il resto del mondo, ma mai avere dipendenze così strette ad altre persone, se no accade quello che accade a questo signore. A un certo punto la persona con cui è in simbiosi, con cui si scambia anche 40 telefonate al giorno, e comincia a perdere qualche colpo. È naturale che all'orizzonte si sia affacciato qualcos'altro a riempire quel vuoto incolmabile, che è un vuoto anche fisico, che a distanza si riempie molto difficilmente. Il contatto, la perdita piacevolezza visiva, la perdita di relazione sensoriale, la perdita di contatto corporeo con una persona è naturale che crea altri bisogni. Di questo dobbiamo essere certi: se una persona con cui abbiamo un rapporto profondo, stretto e quotidiano e anche soddisfacente si allontana da noi, sappiamo che la lontananza, come dicono ahimè le trite parole di canzoni, è molto facile che alimenti e fortifichi le passioni, ma allo stesso tempo è assai più facile che poi le faccia dileguare, le faccia andare verso altre spiagge. Da quel momento sono usciti i miei problemi, ho cominciato ad avere terrore di perderla, ho cominciato ad avere paura di non sentirla più, ho cominciato a chiamarla sull'ufficio, sul lavoro, mandando i fax, ero terrorizzato e dal terrore sono passato a fare anche delle minacce, mai direttamente, si intende, però indirette le ho fatte, del tipo vorrei vederti morta, tutte quelle cose che possono succedere in ogni relazione un po' traballante, no? Per cui molto probabilmente da parte sua c'è stata una paura, il terrore, che io non vedevo, anche perché praticamente in quel momento io non ero più io, ero un'altra persona completamente, io non mi sono mai in vita mia comprato così, mai. Ecco, quello che dicono gli studi e le osservazioni dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking è che chiunque di noi in realtà potrebbe diventare uno stalker. Qualunque persona con cui noi abbiamo rapporti quotidiani, normali, affettivi, di frequentazione, potrebbe covare in sé l'animo dello stalker. Io partivo ogni settimana, andavo giù all'improvviso perché avevo bisogno di vederla, di sapere se stava bene, però ovviamente c'era anche del terrore in me e anche in lei, perché eravamo tutti due spaventati. Praticamente io andavo giù e aspettavo che usciva di casa, andavo al lavoro, vedevo dove andavo, cosa faceva, magari mi vedeva, si spaventava, chiamava i suoi, insomma ci sono stati dei grossi problemi, per cui io appena la vedevo scappavo, ripartivo, cioè io via mail, via sms, via fax, cioè io ho fatto quelle cose per 3-4 mesi, forse anche di più. Dottor Massimo Lattanzi, psicologo psicoterapeutica, che è coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Questa tipologia che stiamo presentando di un stalker pentito presenta dei punti abbastanza classici nell'iter dell'ossessione. Sì, assolutamente sì, è un caso da manuale, mi sembra, questo di Angelo, anche se mi preme di ribadire che il caso è un caso su due, quello che noi ad oggi abbiamo in qualche modo semplificato come stalking avviene tra partner ex partner. Ci sono tantissimi casi che avvengono anche nei condomini e alcuni casi che avvengono anche in ambito familiare, fra genitori, figli o fratelli. E questi casi sono ancora più difficili da gestire. Fra condomini sono quelle piccole rivalità o piccole, ne abbiamo già parlato molte volte, o problemi dati da gestione comune di aree comuni del condominio o da infiltrazioni d'acqua, da rotture di porte e via dicendo. sono problematiche condominiali abbastanza normali, tra virgolette. No, la manifestazione dello stalking è in qualche modo la relazione, quando noi possiamo affermare che lo stalking è assolutamente una produzione delle relazioni interpersonali, e quando è il mio vicino che in qualche modo si fissa, in qualche modo crede di avere qualcosa, una relazione con me, ma è il mio vicino di casa, è quello che è sopra di me, sotto di me, o in un piano, o in una, nella palazzina. Cioè che vuole familiarizzare a tutti i costi? In qualche modo sì, sente che io sia una persona importante per lui, in qualche modo crede di avere una relazione con me. E qua è terrificante, che uno non può far nulla, ce l'ha sopra e sotto casa o accanto e non se ne può liberare. Assolutamente sì, e questi sono dei casi veramente terrificanti che spesso purtroppo arrivano anche, non dico ad omicidi, perché ad oggi non abbiamo casi così specifici di omicidi che hanno avuto come prologo questa tipologia di stalking, ma sono purtroppo delle persone che hanno dovuto abbandonare, in qualche modo vendere la propria abitazione, perché queste persone sistematicamente 24 ore su 24 violavano la privacy e la libertà di queste persone. In questo caso, secondo me, uno all'inizio pensa di essere scortese, pensa di fraintendere molte volte e non capire bene laddove ci sia un comportamento patologico. Alla decima torta con le mele che ci porta la vicina per entrare dentro casa nostra, forse uno dovrebbe capire che magari è il caso di dirle che non apprezza quel tipo di intervento. Sì, però come lei diceva benissimo prima, spesso ci sono dei vuoti nelle nostre esistenze. Queste persone nell'80% dei casi sono dei grandi manipolatori, quindi sono delle persone che trovano sempre la frase giusta, la parola giusta e il gesto giusto in qualche modo per affascinarci, mi passi il termine. E queste persone in qualche modo poi gestiscono la relazione e in qualche modo colmano quei vuoti che in alcuni momenti della nostra vita sono presenti. Cioè lo stalker ci fa pensare che è proprio la persona di cui noi abbiamo bisogno per essere felici, che noi non siamo capaci di capire che lui ci farebbe veramente felice. All'inizio forse lui, ribadisco, ci conferma questo bisogno, dice: ah, ecco, finalmente la persona che mi comprende, che mi ascolta, che sa, che mi capisce anche senza parlare, perché queste persone sono veramente molto sensibili, sempre tra virgolette, che in qualche modo, ma c'è un motivo, perché spesso loro hanno già raccolto informazioni su di me, hanno già visto, monitorato quali sono i nostri bisogni e le nostre aspettative e in qualche modo ce le confermano. E infatti il nostro studio parte anche da una lettura importante della cosiddetta psicologia la psicologia del distacco. Cioè queste persone in qualche modo vanno a colmare questo vuoto che si è creato o per problematiche affettive o per problematiche lavorative o scolastiche, e in qualche modo queste persone ci salvano, fra virgolette. Una sola battuta, poi diamo la linea alle informazioni sul traffico. La vittima dello stalking può dirsi sempre innocente? Guardi, noi valutiamo lo stalking sempre come una relazione interpersonale, una relazione di coppia, non coppia intesa. Quindi diciamo ogni stalker ha sempre un margine di complicità nella persona che lui perseguita. Melog 2.0 800 24 0024, stiamo parlando di stalking, stiamo parlando di ossessione di alcune persone che non accettano di essere lasciate, abbandonate e corrisposte in un rapporto amoroso, ma stiamo lentamente capendo che non esisterebbe uno stalking, non esisterebbe uno stalker senza un minimo di partecipazione. Lo stalking è comunque anche una relazione, c'è qualcosa in cui bisogna intervenire sicuramente per evitare che si arrivi a dei momenti tragici e paradossali, come spesso accade. Avevamo iniziato con la storia di uno stalker pentito. Angelo, terminiamo la sua storia. E da lì ho cominciato ad avere grossi problemi io dopo, perché la paura che avevo io come momento mi ha bloccato, mi ha fatto venire l'anoressia, volevo morire, non potevo permettermi in quel momento lì di non vederla più. Per me era più importante della luce del sole, senza di lei stavo male. Potevo lavorare anche 12-15 ore al giorno senza pensarci, ma appena smettevo la mia mente continuava ad andare verso di lei e di cominciavano i nostri problemi. Ne salivano gli incubi nei momenti di pausa della mia vita normale. e quegli incubi mi portavano poi appunto a partire all'improvviso, magari ho cambiato diversi cellulari perché le memorie non contenevano più 100, 200, adesso non mi ricordo, 300 messaggi. Lei giustamente mi ha fatto una querela alla quale io non ho dato alcun peso, perché per me l'importante era vederla. È interessante vedere il punto di vista del persecutore, così si capisce quali sono i meccanismi che lo animano, una sorta di incapacità a gestire questa propria smisurato desiderio di appartenenza, di esistenza, di possesso, mandare messaggi su messaggi, bloccare la propria necessità di muoversi nei confronti di questa persona e soprattutto la centralità assoluta che assume questa persona nella sua vita, come se non esistesse nessun'altra chance al mondo per potersi ricostruire un'affettività, una passione, una piacevolezza. Esiste soltanto la vittima per lui. Sono arrivato a perdere 3 kg in 3 mesi, ma ero sull'orlo veramente del suicidio. E però cercavo allo stesso tempo di capire perché succedeva tutto questo. Con l'aiuto dello psicologo siamo sulla strada di poter uscire da questa crisi. Da un certo punto di vista mi fa piacere, da un altro punto di vista mi inquieta, dato che l'80% delle vittime stalking sono donne. Questa mattina non vedo donne, non sento donne, improvvisamente hanno risolto tutti i loro problemi o sono così fortemente timorose di raccontare queste loro storie da tenersi nascoste, ma abbiamo in realtà, e questo mi fa piacere, tirato fuori la punta dell'iceberg di quel 20% di uomini che in realtà questa mattina sono molto attenti. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Lei è un uomo stalkizzato, non so se dica così. Aspetti un attimo che abbasso il volume. Sì. Pronto, eccomi. Eccomi qua. Sì, sono uno dei 20%, infatti anch'io sono un po' sorpreso che non chiamino donne, perché di solito nella mia vita ho sempre sentito dalle amiche o conoscenti di solito al contrario. Si figuri che io ho un'amica che fa l'insegnante di Kung Fu, che fra le sue allieve ha una signora che va a prendere arti marziali perché c'ha un suo ex uomo che la colca di botte ogni volta che esce di casa. Non lo denuncio, però a fare lezioni di Kung Fu, per dire un esempio. Prego. Ecco, la situazione contraria direi che è molto pericolosa, e prima di raccontare la mia storia direi consiglierei a tutte le donne di non aver paura, ma di, appena si accorgono che la situazione diventa pesante, di dirlo a familiari, polizia, forze dell'ordine, chi sia, ma di non tenerlo dentro di sé. Esiste un sito www.stalking.it, uno dei tanti che se ne occupano, è quello a cui fa parte il dottor Lattanzi, che abbiamo ospite di questa trasmissione. Ma datevi da fare, non è difficile trovare dei punti di approdo per chi subisse questo tipo di problema. Massimo, vada alla sua storia. Ma la mia storia è ancora, diciamo, attiva, nel senso che io ho 40 anni, sono un single, non sono mai stato né sposato né... Quindi nemmeno ricattabile da un punto di vista familiare. Sì, e non siamo a livelli di pericolosità, di nulla assolutamente, però questa persona io la conoscevo da molti anni, era una mia amica, e sapevo già del suo atteggiamento verso gli uomini, che erano già un po' così, sempre insistente quando le storie finivano. L'amica Bostic che tutti abbiamo nella nostra sfera di amicizie. Sì, diciamo che lei era un po' conosciuta anche da altri per questo suo modo un po' ossessivo poi di non finire mai le storie. Diciamo la verità, sono utili queste amiche quando uno ha bisogno, che ne so, che di fare delle raccomandate, di portare il cane fuori quando non può, di aver qualcuno che ti paga le bollette, però dopo esiste un red rationem anche su questa questione. Ma è che io, fino a che era una mia amica, ci stavo benissimo, perciò poi un giorno è scattata la molla, ci siamo baciati, questa grande passione, durata qualche mese, si parla nell'arco di questo anno, adesso da settembre è finita, e dopo vari battibecchi, perché comunque la storia non funzionava, e a un certo non punto, se la riesce a levar di torno. Dopo una lite abbiamo litigato e basta. Il mio metodo è stato quello che ho sentito da voi in radio all'inizio da un altro uomo, che diceva di chiudere le porte totalmente. Io ho chiuso le porte totalmente, conoscendo anche come avrebbe reagito lei, non l'ho mai dato il minimo motivo, perciò ho iniziato ad avere la sua presenza fisica che mi cercava, le lettere scritte in carta, i messaggini a fiumi, le telefonate in tutte le maniere, a ripetizione, e questo è andato avanti in maniera molto pesante per un primo periodo. Ma lei è stato chiaro, ci ha detto, cara amica, sì, non se ne parla. Io di carattere sono così, quando chiudo, non do mezzi termini, non voglio dare illusioni, anche perché capisco che nel momento che io mi posso anche vedere con la persona, certo, chiunque sia, e darle un po' di conforto, così si accende di nuovo una minima speranza e quella persona riparte da zero. Allora, diciamo, qual è stata la punta più avanzata della molestia, se così si può chiamare? Qua mi sembra... No, io molestia, a dire la verità, non ho mai ricevuta, anzi il suo metodo, più stanno passando i giorni, più è delicato, mi sta cercando di riprendere con la dolcezza, pur dicendo che io adesso ho un altro interesse, un'altra persona... Lei non ci crede, insiste. Beh, comunque lei continua ad averci rapporti, perché ci parla e racconta le cose sue. No, quindi... no, assolutamente. No, io non rispondo ai messaggi, nulla di nulla. Quelle poche volte che ho risposto al telefono non sapendo fosse lei, allora ho due cosine. Guardi, io le auguro soltanto una cosa, che la sua amica Bostic, ex fidanzata, non abbia ascoltato questa trasmissione, sennò riavrà nuovi motivi per pensare che lei la pensa e quindi rinnovare il suo attacco. Manfredo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ma io sono stato fatto, ora ci stavo ripensando, ho avuto un'esperienza di stalker, come si dice, o stalking, non l'ho ben capito, abbastanza anomala, in quanto era un mio amico che mi perseguitava alla follia. Era innamorato di lei? Ma oddio, abbiamo pensato anche questa alla fine, però diciamo che era il più sfigato di tutta la compagnia. Forse per questo non aveva ben orientato i suoi esatto, desideri, forse. Che io me lo ritrovavo, cioè, lo raccontò prima la ragazza, avevo fissato ad andare con una ragazza al cinema e stupidamente io gli avevo detto, guarda, forse stasera vado al cinema con Cecilia. Poi alla fine non ci sono andato perché mi addormentai e lui alle 1:30 mi suonò a casa svegliandola e mi babbo, mia mamma era morta purtroppo e disse, ah mamma, perché non ti andai al cinema? Mi fa, ma guarda Nanni, che tu vuoi da me? Cioè, che storie sono queste? Me lo trovavo sotto casa agli orari più assurdi, sapeva tutto di me anche se magari non ci si vedeva. Ma lei non ha mai chiarito con questo amico, alla fine non gli ha mai detto lei che vuole? No, io alla fine ho fatto il, come diceva il... Ha interrotto i rapporti? Ho interrotto i rapporti, ho iniziato a... quando lo vedevo da lontano cambiavo strada, non rispondeva al telefono e poi pian pianino, per fortuna, si è lasciata sta cosa, ma era veramente una mignatta... insopportabile. Alla fine poi si era tirato fuori le leggende e portasse sfiga, perché capperi, tutte le volte fissavo con qualcuno, arrivavo lui, ovviamente andavo in buca, perché che tu fai? Evidentemente, guardi, mi sembra, vista da fuori con distacco e freddezza, sembrava solamente follemente innamorato di lei, il suo amico, finisce lì, è chiaro che si mette a di mezzo, che non voleva dividere la sua passione, il suo amore con altre persone, se ne faccia una ragione. Dottor Lattanzi, le abbiamo dato un po' di casi anomali, però nell'anomalia forse trova degli spunti per darci invece istruzioni più concrete sui casi più ricorrenti? Ma guardi, sinceramente sono dei casi che noi ascoltiamo tutti i giorni e come le dicevo prima non si può fare una distinzione di genere, mi fa piacere e ringrazio Roberto, Massimo e l'ultima persona, perché noi da circa 8 mesi riceviamo più telefoni da uomini che da donne. Ma quindi si sta invertendo la tendenza, quindi siamo un indicatore coerente rispetto a una realtà? Assolutamente sì, vi ringrazio ancora per dare la possibilità a questi uomini. Ci dica soltanto in un minuto, cosa fa lei quando si presenta uno stalker pentito, dice voglio curarmi? Come funziona in un minuto la terapia? Guardi, assolutamente bisogna accoglierli e cercare di far consapevolizzare che quello è il suo punto di vista, perché molto spesso loro hanno bisogno, perché hanno terrore di essere abbandonati, di vivere una separazione. Loro vivono il cosiddetto colpo d'abbandono improvviso e diventano esageratamente controllanti. Noi abbiamo ottenuto degli ottimi risultati lavorando su queste emozioni e sulla paura dell'abbandono, più che la paura e la rabbia che spesso in qualche modo viene trasmessa dai mass media. Cioè vi accollate voi l'onere di prendervi l'attacco dello stalker, ve lo prendete voi? Assolutamente sì, li conteniamo ma li accogliamo in maniera condizionata, perché ribadisco... E poi cosa fate? Terapia? Come fate a fargli... Assolutamente una terapia che lavora sulle emozioni, sullo stile di personalità e su... appunto sul vuoto esistenziale. Ma li mettete anche a contatto con la vittima di fronte a un vostro... A volte siamo riusciti, in 10 casi siamo riusciti a fare una sorta di mediazione e ha funzionato tantissimo. Come diceva la prima persona intervenuta, l'uomo che all'inizio è intervenuto, in qualche modo bisogna strutturare un protocollo che sia condiviso, va a scemare piano piano, e questo è un protocollo molto utile che stiamo spendendo. Cioè dare delle regole, metterli a confronto e cominciare lentamente. Ultima cosa, in un secondo. Prego. Vedete mai nella vittima una sorta di quasi tentativo di quasi nostalgia inespressa quando poi la liberate dello stalker? guardi, più che nostalgia inespressa, a volte la esprimono proprio. In qualche momento mi manca quello che mi diceva e quello che mi faceva sentire una principessa. Ecco, quindi vedete che il problema è molto più complesso di quanto possa essere radicalizzato in una notizia di cronaca. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.